Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo, buongiorno. Ciao Federico. I due padri qui a raccontarvi ogni domenica mattina la paternità, l'essere padre da due punti di vista apparentemente distanti e diversi. Il papà un po' più presente, Matteo il papà un po' più assente, sarei io. Però insomma, dai nostri due osservatori cerchiamo di raccontare quello che vediamo di fatto, no? E condividerlo. Certo. Con i nostri ascoltatori. Radio24.it è il nostro sito, lo conoscete bene, da lì potrete scaricare il podcast. Poi c'è la nostra pagina Facebook, la pagina ufficiale dei Padri Eterni, lì potrete lasciare i vostri messaggi e trovare i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi parleremo di controllo, che è una parola che fa già paura un po', eh? Assolutamente, ma poi nel caso dei genitori dovremmo parlare di ipercontrollo, perché una sana forma, come dire, di vigilanza ci sta, fa parte della paternità, fa parte dell'essere genitore. Quando sfocia nell'ipercontrollo, ahimè, rischia di diventare una cosa oppressiva. Eh sì, perché ci sono guinzagli reali con i guinzagli metaforici, guinzagli che è anche difficile mollarli, poi lo sappiamo bene da padri, altri... Che siamo noi stessi che veniamo controllati, veniamo costretti a tenerli. Insomma, cercheremo di affrontare il discorso da tanti punti di vista diversi, però, prima partiamo con uno strano viaggio. Ciao. La spiaggia di Riccione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone. Bronza di un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e non sempre più lessi, a farci dindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone. Mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfugherà le dita, come la sabbia arriva al mare. Sono partiti da Chicago il 31 ottobre, dovrebbero arrivare a Los Angeles i primi di dicembre, è tutta la mitica Route 66 che loro faranno in Ciao, America in Ciao si chiama il progetto e vede come protagonisti un padre e un figlio. Diamo il benvenuto a Henri Favre e ad Alessandro Favre. Ciao Henri! Ciao Alessandro! Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Henry, qui sei tu il folle della coppia, vero? Sappiamo che insomma... Sono il figlio. Esatto. Hai convinto tuo padre ad accompagnarti in questo strano viaggio. Come hai fatto? Semplicemente lo vedevo che quando io, diciamo, faccio un po' di viaggi qua e là, passo per il mondo con mezzi insoliti. Sì. E lo vedevo che mi guardava sempre con dire voglio fare anch'io qualcosa del genere. E così parlando, ma neanche troppo seriamente, un giorno ho detto che le avrebbe fatto piacere andare a Genova a mangiare un po' di pesce in motorino. Ok. E io sono riuscito a trasformare quella Genova e quel pesce in un deserto di 5.000 chilometri qua in America. Fantastico. Tanto il ciao, scusa, tuo padre ha 54 anni, tu ne hai 22. Il ciao appartiene più alla sua generazione che alla tua. Sì, diciamo di sì, adesso ormai quelli della mia generazione è tutta plastica e più veloce, quindi diciamo anch'io mi sento un po' fuori luogo, però mi piace un sacco e affrontare un viaggio del genere con un mezzo insolito è qualcosa di ripagante, di bellissimo. Ma tra l'altro, oltre che con un mezzo insolito, Henry, lo fai insieme con tuo padre, no? Io per esempio ricordo, ho avuto un rapporto abbastanza problematico con mio padre, come credo quasi tutti, insomma, un po' nell'ordine delle cose. Eppure tra i ricordi più belli della mia vita ho due brevi viaggi fatti da solo con lui, che ricordo che all'inizio facevo resistenza, non ci volevo andare, e invece alla fine i giorni passati insieme mi sono sembrati troppo pochi. E ti volevo chiedere, la cosa bella di questi viaggi per me sono quei momenti, quegli attimi in cui ti sembra quasi, stando con tuo padre, parlando con lui, che tuo padre abbia quasi la tua stessa età, non so come dire, riconosci in lui ancora il ragazzo pieno di sogni e di voglia che custodisci ancora dentro. E volevo chiederti se questa impressione appartiene anche alla tua esperienza. Sì, quello un sacco, chiaramente vedere dallo specchietto quello che diciamo la mia fabbrica che ha lo specchietto retrovisore che fa le stesse cose che faccio io, che per me sono la fine del mondo, figurati per lui che è abituato da 30 anni a stare tutto il giorno in gelateria a lavorare, ecco, cioè, è qualcosa di immenso per lui ma anche per me, perché appunto al mio fianco c'è qualcuno di importante. Alessandro, tu hai accettato questo viaggio perché volevi controllare tuo figlio? Al 50%. Un pochino. Perché... No, al 50%, siamo al 49%. Perché quando mi ha detto che voleva farsi la cost da solo col motorino, ho detto, cavoli, è un viaggio un po' duro, un po' pesante. Dico, cercati un socio, un amico. Ma per il negozio la mattina del 1° di maggio, con la stampa aperta, la pagina giusta, dice, guarda l'articolo, c'è scritto vado in America col ciao e con papà. Ho detto, cazzo che bello, con papà, qui sono io. E non ho detto, cosa faccio? Vado, non vado, ci vado e lì è partito tutto. Credi, Alessandro, che sarà un viaggio che cambierà il rapporto tra te e tuo figlio? Allora, forza, perché in qualche modo ci mettiamo a prova vicenda. Io a sopportare me, io cerco in qualche modo di dirgli le cose da evitare per il suo bene. E mi interessa ancora fatti i fatti tuoi che ci penso io. Comunque stiamo vedendo la vita bene, un ottimo rapporto. Anche perché siamo due bocce. Io più pieno di lui, quando posso faccio il cretino, mi diverto senza far danni. E questo è il bello della vita, di godersi la cosa se riusciamo. Certo. Ecco la risposta alla domanda che ho fatto prima sulla stessa età. È arrivata. Allora, ricordiamo la pagina Facebook America in Ciao per seguire l'avventura in diretta, e poi c'è anche il sito henryfavre.it. Henry, abbiamo sentito, tu e tuo padre state bene, e i due ciao come stanno? I motorini non mollano, molla più la mia schiena che mio papà, che i motorini. Diciamo, per ora è l'unica cosa che ha mollato di questo viaggio. Abbiamo bucato una volta e rotto una frizione, però chiaramente fa parte del viaggio. Deve esserci anche quello. Grazie davvero, buon viaggio, magari ci risentiamo prima della fine così ci aggiornate sui vostri spostamenti. Caso. Esatto. Ciao, grazie. Grazie. Noi ci fermiamo al momento del traffico qui in Italia, non sulla Route 66, e poi ancora con i Padri Eterni. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Padri Eterni. Eccoci qua ancora con i Padri Eterni in questa puntata dedicata in parte al controllo. E beh, c'è un tema che forse, c'è un campo direi, dove la presenza dei genitori è tosta, pressante. Nessuno di fatto ci insegna anche come esserci, no? Lì, durante i compiti. Tu sei bravo a fare i compiti? Ma questa è la questione delle questioni. Io, come tu ben sai, per scrivere il precedente libro ho parlato con molti insegnanti, i quali mi dicono che ai colloqui spesso si trovano di fronte a dei genitori che gli dicono: lei ieri ci ha dato 5. Noi abbiamo studiato tutto il pomeriggio e lei ci ha dato 5. E quindi, e questo proprio dichiara l'invadenza dei genitori. Guarda, io stesso una volta mi sono trovato, lo dico, lo dichiaro in diretta nazionale, a fare i compiti di mia figlia Virginia. Al posto, era tardi, sai, era tornata dal corso di danza, stavo facendo da mangiare, poi dovevo lavare i piatti, non volevo che andasse a letto tardi, cominciava X Factor, ho detto va bene per stavolta, e mi sono messo lì. È capitato solo quella volta perché ho preso 5, sì. E lì ho capito che non danneggiavo solo mia figlia, ma stavo danneggiando anche la mia autostima, e ho smesso immediatamente. E dire che c'è una strategia perfetta che, per non fare i compiti. Oh, ma che... ma che ore? Le 4:01, no, non mi piace lo 01. Metto a studiare 10, ya. Yeah. Vado a pigliare una cosa, la mangiamo. Che? Okay. Wow, sono 13. Ma poi è un quarto. Il Nintendo. Subbuteo. Che gran gioco. Le 17:17 del 17. E sono pure 17 secondi. No, vai tu. Studio dopo. Hey! 8:30, mamma è pronto? Sì, anche oggi studio domani. Certo, The True, uno dei tanti youtuber che si diverte a mettere in scena vite quotidiane, appunto i compiti sono un grande esercizio. Sto pensando che noi invece genitori un po' assenti, no? Cadiamo sempre in quella trappola che magari non ci sei, fai la telefonata, fai anche le telefonate, più di una durante il giorno, e ci caschi sempre nel chiedere, allora hai fatto i compiti, come se fosse la cosa più importante, che è ovvio che è una cosa importante, però poi cadi lì, no? Che è un po' il senso del dovere, un po' perché è il senso del controllo a distanza, e comunque quell'errore lì lo si fa sempre. Di questo ne parliamo con un'esperta, diamo il benvenuto a Lucia Attolico, psicoterapeuta e autrice di Mai più bocciati, il modello SOS Studio per aiutare tuo figlio a scuola e nel rapporto con te, Franco Angeli. Ciao Lucia, benvenuta ai Padri Eterni. Ciao e buona domenica. Buona domenica, Lucia. Ciao. Allora, i compiti sono... Cosa sono? Un link, sono una barriera, sono una connessione con i nostri figli? C'è un modo giusto per porsi nei loro confronti, per avere una giusta comunicazione anche con i nostri cuccioli? Certo, ma i compiti sono una opportunità per i genitori per creare un rapporto migliore con i figli. Bisogna solo sapere qualche strategia per utilizzare i compiti per andare d'accordo con i figli. Ok, qui siamo passati dal papà che telefona e la prima domanda che fa è: hai fatto i compiti? All'altro papà che fa i compiti al posto della figlia perché c'è X Factor. Spero che ci sia una via di mezzo, vero? Esatto, c'è la via di mezzo. Con questo libro i genitori possono assolutamente rilassarsi, tranquillizzarsi, perché c'è tutta una tecnica per aiutare i figli a fare i compiti senza dannarsi l'anima. Per esempio, una delle cose che possono fare i genitori, è vero, è quella di telefonare ai figli, ma non per chiedere se hanno fatto i compiti, ma per dire loro di iniziare a farli, lasciando tutta la responsabilità ai figli. Se c'è un bisogno oggettivo, cioè se c'è anche una richiesta di sostegno, cosa bisogna fare? Bisogna esserci comunque o no? Esserci quando i figli sono piccoli, quando frequentano le scuole elementari, quando frequentano la prima media. Dopo bisogna almeno lasciarli mezz'ora a sbattere la testa per trovare la soluzione al compito che non sanno fare, che non sanno capire, eccetera, e muoversi dopo quella mezz'ora, perché altrimenti non li abituiamo a cercare la soluzione da soli. Certo, ma poi io credo che la chiave, Lucia, stia proprio in quella meravigliosa parola che hai usato poc'anzi, no? Responsabilità, cioè sviluppare la capacità di rispondere per sé. In fondo i compiti servono anche a questo, cioè il compito dei compiti non è tanto quello di accumulare nozioni o imparare a fare cose, o meglio non è solo quello, ma secondo me, no, correggimi se sbaglio, è anche quello, come dire, di insegnare a rispettare un impegno preso, no? Di confrontarsi con una cosa che in quel momento è il tuo dovere, è una cosa che devi fare, e quindi si diventa grandi anche superando, no, questo genere di ostacoli. Sì, sono d'accordo. Quello che noi facciamo fatica a insegnare ai figli è a sbattere la testa contro un problema, non problema, e non chiediamo loro come lo risolveresti, ma ci mettiamo al posto loro a risolverlo. E questo lo facciamo sia come genitori, ma sia anche come, spesso anche come insegnanti, anche come adulti in generale. Cerchiamo di togliere gli ostacoli ai ragazzi. Purtroppo però, per esprimere lo spirito creativo, le proprie responsabilità, bisogna proprio prendere le responsabilità in prima persona, prendercele addosso, vestirci di queste responsabilità. Lucia, un'ultima domanda. È la solita richiesta, appunto, i figli arrivano a casa... E anche lì diventa proprio istintivo chiedere: allora com'è andata a scuola? Ci risiamo? Un altro errore che facciamo? No, non è un errore. Cioè, senza il metodo che spiego, non è un errore, perché ci sono ragazzi che aspettano questa domanda e la vogliono, e altri invece che la odiano. Allora, smettere di fare questa domanda a quelli che odiano questa domanda aiuta a chiedere questa domanda da parte dei figli. Cioè, a un certo punto, se tu smetti di chiederlo ai figli che non la amano, dopo un po' i ragazzi si chiedono: ma perché non me la fa più quella domanda? Strategie. Ma i più bocciati, Franco Angeli, ve lo consigliamo davvero, un'ottima lettura, molto pratica, con tantissimi spunti. Grazie Lucia, buona domenica. Prego, buona domenica a voi. La faccia di Matteo Bussa nel momento in cui l'ho detto, sai, parliamo di un babysitter digitale, ti ho visto un attimo. Sì, sì, in effetti è così, insomma, ho problemi con entrambe le parole. È vero, anche se poi un attimo dopo mi hai detto che tua moglie... Ha... Ho problemi con entrambe le parole per questo, nel senso che Paola, che è diciamo un peletto più ansiosa di me, ha fatto realizzare per le nostre tre figlie proprio tre medagliette GPS quest'anno quando siamo andati al mare, che al momento sono nella cerniera del mio zaino perché non hanno mai funzionato, però l'intenzione c'era. Nel senso che le seguivate con lo smartphone? E per rintracciarle, no, le dovevano indossare in modo da essere rintracciabili in qualunque momento. Fantastico, diamo il benvenuto a Mario De Felici, ideatore di un dispositivo che appunto è nato per controllare i propri figli, si chiama Sere Sitter. Ciao Mario, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Buona domenica Mario. Allora, siamo a Catania, una startup direi, che idea hai avuto? L'idea era quella iniziale del nostro amico. Allora, io sono un nonno, sono da 41 anni nel settore della sicurezza. Sì. Ahimè, purtroppo un anno e mezzo fa la nipotina va per la prima volta a scuola, vi è la prima GID, la bambina deve andare presso altri amici. Ecco, comincia la grande ansia della mamma. Della mamma nonché della figlia. Sento in giro altre mamme e vedo che c'è questa grande richiesta. Diamo mandato ad una società per una ricerca e sentono un centinaio di mamme quale potrebbe essere il prodotto che potrebbe affinarsi a questa richiesta per poter abbassare l'ansia da mamma. Ahimè. E quindi è un orologio che ti indica la posizione del figlio, ma non solo. Il nostro ufficio di ricerca ha pensato di assemblare, ecco, l'oggetto a forma di orologio. Abbiamo ideato anche una serie di 9 colori, per cui è anche gradevole dal punto di vista di visione esterna. Però è una sorta di braccialetto elettronico, quello che hanno i carcerati. No, non è un braccialetto elettronico, per nulla. Allora, la mamma attraverso un'app è nelle condizioni di stabilire il bambino dove si trova in qualunque momento del giorno e della notte. Poi sull'orologio vi è un pulsante SOS. Sì. Il bambino, azionando questo pulsante, mette in viva voce la sua persona con uno, la mamma, il papà. Okay. Non altro. Perfetto. Nel caso che la mamma e il papà non sono nelle possibilità di rispondere, ecco la novità assoluta, l'unica a livello mondiale, la centrale operativa. Scatta una centrale operativa che si mette in contatto col bambino e lì cerca di risolvere le problematiche che richiede il momento. Certo. Poi a questo si aggiungono altre proprietà del sistema. Ci sono due grandi applicazioni. Uno, se il bambino toglie l'orologio, il sistema scatta, per cui si è nelle condizioni di sapere. Due, si può creare l'area di sicurezza. Questa è una delle richieste tantissime fatte dalla mamma. La mamma crea un'area di sicurezza nell'app, se il bambino esce da quell'area manda un messaggio. Questa è stata una richiesta fatta ultimamente dalle mamme in virtù di quella che è la richiesta degli istituti scolastici perché si è responsabile dei bambini al di sotto di 14 anni. Se il bambino si allontanasse dalla scuola, la mamma ne viene a sapere subito subito e lì scatta la viva voce, scatta il sistema telefonico. Mario, perché Mario, il scusami, sistema è anche un telefono. Mario, prego. No, allora mi sembra adesso al di fuori degli scherzi un dispositivo utilissimo. No, dicevo, ecco, mi auguro, per fortuna lo hai già detto tu, io credo che comunque lo proibirei al di sopra dei 14 anni, nel senso che finché sono bambini d'accordo, ma avere dei figli adolescenti che possono essere localizzati in qualunque momento è il contrario, in un certo senso, della costruzione della fiducia, no? Assolutamente sì, no, infatti mette un po' d'ansia. Esatto. Il range di applicazione che noi lo diamo è da 5 a 11. Mario, grazie davvero. Seresittere.it per tutte le informazioni. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Grazie. Non allontanarti, buona che ti domenica. Becchiamo. Okay. Ciao, ci fermiamo. La pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ciao, sono bambino di 18 anni. Quello che vorrei consigliare a tutti i padri è di accettare le scelte dei propri figli, anche se non è quello che avreste fatto voi o è qualcosa che non vi piace, perché spesso per noi figli la vostra approvazione è l'ultimo scalino per decidere se una strada è quella giusta o no. Ricordatevi sempre che siete figli prima che padri e siete stati figli adolescenti che volevano fare scelte a nostro avviso difficili. E un altro appunto, per i padri delle femminucce, non siate mai gelosi dei fidanzati, perché tanto non c'è pari. Malvina, non male come consiglio. Ah, Malvina ha assolutamente ragione, perché il processo di crescita dei figli è proprio un vero e proprio processo di tradimento, soprattutto delle nostre aspettative, no? E il compito più difficile per un genitore, per un padre, è proprio quello di riuscire ad accettare la verità dei tuoi figli, anche quando è molto diversa da quella che ti aspetteresti tu. Sul discorso di non essere gelosi dei fidanzati io mi astengo. Sì. Io ho messo due figli maschi, quindi insomma diventa più facile questo campo, lo ammetto. Questo è I Padri Eterni, radio24.it, per scaricare il podcast I Padri Eterni, la nostra pagina ufficiale di Facebook. Lì potete lasciare messaggi, lanciare critiche e darci suggerimenti. Adesso andiamo a parlare dei padri dell'antichità. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh. Facciamo un viaggio nel tempo, perché per capire un po' i padri moderni è ovvio che vanno capiti anche i padri del passato. Lo facciamo con Eva Cantarella, storica dell'antichità e autrice del libro Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma a oggi, edito da Feltrinelli. Buongiorno Cantarella, benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno Eva. Insomma, in un programma dove si parla di padri, ospitare l'autrice di un libro che si intitola Come uccidere il padre sembra un po' masochismo. Ma non è un invito, non è un consiglio. Eva, che ricerca ha fatto? Ho fatto una ricerca sui padri antichi, perché io studio da anni il diritto romano e quindi mi ero occupato molto della famiglia romana. E quando leggevo, come si legge spesso, dei vari crimini, problemi, soprattutto dei crimini in famiglia, tra padre e figli, figli e padre, più spesso casi di parricidio, e leggevo che era un effetto della crisi della famiglia, effetto della modernità, mi sembrava molto strano, perché conoscendo il diritto romano, devo dire, dobbiamo solo ringraziare il cielo che i padri non siano più quelli di un tempo. Ecco. Assolutamente. Il titolo viene da un suggerimento di un grandissimo studioso, il maggiore studioso di Roma vivente, secondo me, Paul Vane, che ha scritto, parlando proprio dei rapporti padri e figli a Roma, che i poteri dei padri erano tali e i rapporti erano così difficili, dice che a Roma c'era una nevrosi nazionale del parricidio. Nel senso, non solo che c'erano molti parricidi, il titolo viene dal fatto che c'è una parte di quel libro in cui spiego come avvenivano soprattutto a Roma i parricidi. C'erano due sistemi, erano i sicari ed era l'avvelenamento. Insomma, okay. La teoria di Vane è questa: c'era una tensione tale fra tra padri e figli, che il parricidio era una nevrosi, non era solo un crimine, lo era certamente frequente, ma c'era proprio una difficoltà, perché i poteri erano dei padri erano tali che i figli in realtà vivevano la morte del padre quasi come una speranza. C'è una sorta di deriva del concetto di rottamazione, diciamo. Sì, anche perché nell'antichità la rottamazione dei vecchi c'è stata, non a Roma, molto prima, ma insomma a 60 anni venivano, di solito i vecchi venivano buttati giù da qualche rupere in varie popolazioni, anche a Roma, in tempi precedenti alla nascita di Roma. Ma poi qualcosa è cambiato a un certo punto? Ma guardi, purtroppo la cosa è cambiata da poco adesso, non voglio dire che sia arrivata fino a noi, però dico, perché questo è, che fino al 1975 il nostro codice regolava una famiglia che era ancora una famiglia patriarcale, in cui si parlava ancora di patria potestà e di capofamiglia. Quella famiglia, con tutte le modifiche attraverso i secoli, naturalmente gli attenuamenti dei poteri del padre, era ancora la vecchia famiglia patriarcale, che è durata veramente millenni, ma pensi nell'illuminismo, Beccaria diceva i danni creati a tante migliaia di persone dal fatto che la famiglia non è vista come un insieme di persone, ma come un gruppo sotto un capo. Naturalmente le dico, cioè, certo che nel corso della storia romana stessa alcuni poteri diminuiscono, ma tenga presente che anche per tutta la storia romana il padre aveva il potere di uccidere i figli, gli us uccidendi. Le voglio dare un solo esempio, sì. Per ben tre secoli dalla nascita di Roma, cioè fino alle 12 tavole, che sono nel 450, i padri potevano vendere figli e li vendevano in condizioni di schiavitù presso un'altra persona. Se questa persona li liberava dalla schiavitù, questi non diventavano liberi come lo schiavo che veniva liberato diventava libero, no, questo tornava automaticamente sotto il potere del padre. E solamente dopo tre secoli dalla nascita di Roma c'è una legge che dice che se un padre vende tre volte un figlio perde la patria potestà. Eva, senta, c'è una poesia che io amo molto di Iosif Brodsky, si chiama Odisseo a Telemaco, in cui vediamo proprio questo confronto fra il padre e il figlio, no? C'è questo Ulisse che torna dopo tantissimi anni lontano da Itaca e nel momento in cui ritorna in patria si trova di fronte a suo figlio che è ormai un giovanotto e gli dice proprio questa cosa, gli dice a un certo punto sono puri i tuoi sogni, Telemaco, cioè in sostanza gli dice sì, standoti lontano io chiaramente ti ho tolto anche delle cose, ma ti ho risparmiato Edipo, ti ho risparmiato la mia ombra. E gli dice questa frase come se lo liberasse finalmente, gli concedesse di andare ed essere se stesso nel mondo, che poi dovrebbe essere il compito di ogni padre, credo, no? Rispettare i figli e accettare il fatto che siano proprio diversi da noi. Ma infatti quando sento dire è l'effetto della modernità la crisi, no, ma meno male, la modernità ci ha portato un nuovo tipo, una figura di padre, certo io non sono un padre, non posso parlarne, ma, e non sono neanche una madre, non posso parlare per esperienza personale, ma mi guardo attorno, vedo, no, conosco. E i padri di oggi sono radicalmente diversi, sono loro veramente, intanto sono molto più presenti, sono una figura molto più affettiva, no, di quanto non fosse una volta. Certo. E poi veramente finalmente hanno un concetto della libertà dei figli, poi ci sono le eccezioni che è assolutamente molto molto recente, fortunatamente c'è adesso. Diciamo che abbiamo scoperto anche noi finalmente che l'affettività è un territorio che ci spetta. A pieno titolo. Voi padri, sì, è vero, è vero. Con questo libro io non voglio dire che i padri non amassero i figli, li amavano a modo loro, perché vede, anche l'amore è un sentimento che vive nella storia, no? E allora, nella storia vuol dire che vive, puoi vivere un amore all'interno delle regole sociali e giuridiche che quel momento e quel paese ti dà. E in quel momento, con quei poteri giuridici, è chiaro che dei comportamenti che oggi sembrano tremendi potevano aver luogo tra genitori e figli che a modo loro si amavano, ma che ritenevano normali certe cose per noi orrende. Assolutamente. Poi ci sono parricidi moderni, ci sono padri che si sentono ammazzati quando il figlio gli toglie l'amicizia su Facebook. Questo è anche lì. Cambiano i pesi, cambia la società. Certo, certo. Eva, grazie davvero. Ricordiamo allora Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma oggi, edito da Feltrinelli, insomma come tutti i libri di Eva Cantarella, sembra di esserci in quel pezzo di storia, quindi sono sempre ricchissimi di stimoli, complimenti davvero per questo bellissimo libro. Grazie per l'invito, grazie per i complimenti. Ciao Eva, grazie, buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Noi invece ci fermiamo al momento del traffico, poi ancora qua con i Padre Eterno. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Padri Eterni. Flowers, il brano che stiamo ascoltando e fa parte dell'ultimo lavoro di Giovanni Allevi, che ha un titolo che è un po' un manifesto per noi padri, perché è Equilibrium, che è insomma quell'equilibrio che cerchiamo quotidianamente, e abbiamo il piacere di avere qua con noi Giovanni Allevi. Ciao Giovanni. Ciao Federico, grazie per l'invito e saluto con grande affetto anche tutti i radioascoltatori. Grazie a te. Come stai? Periodo intenso, vero? È un periodo in cui sto cercando l'equilibrio. sì, è un periodo molto intenso, molto molto intenso, però bello, pieno di ansie e di gioie, di ebbrezza. Ecco, questi sono i poli opposti attraverso cui oscilla il pendolo della mia vita. Certo, adesso andremo a scoprire gli appuntamenti che ti aspettano nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Però tu sai, qui siamo Padri Eterni. Giovanni Allevi è anche un papà e due figli, giusto Giovanni? Ricordo sì, bene. Sì. Infatti. Sono pieno di sensi di colpa perché per il lavoro insomma mi capiranno molti papà. Sì, no, molti sei in ottima compagnia, sì. Benvenuto nel club, Giovanni, ti facciamo la tessera. No, grazie, quindi siamo indulgenti nei confronti dei papà che purtroppo per lavoro vedono poco i propri figli, in fondo comunque lo facciamo per loro e quindi insomma che qualcuno ci perdoni. Bravo. Giovanni, però eravamo curiosi di capire quanto la paternità aveva influito nella tua creatività, l'ha cambiata, l'ha amplificata, l'ha ridotta, perché può succedere anche quello. C'è un rapporto tra creatività e paternità? Dunque, sicuramente c'è, però diciamo nel mio caso la creatività musicale nasce proprio nella solitudine. Ecco, è un elemento che frulla nella mia mente a prescindere da tutto quanto accade intorno. Sicuramente ecco, la paternità conferisce un senso in tutto quello che faccio, sicuramente. Però l'aspetto proprio specificatamente musicale e creativo è una follia che mi gira in testa e basta. Giovanni, da padre mi chiedevo, insomma, è una domanda che mi interessa molto, come si fa a educare, anzi a allevare, direi, no, nel tuo caso, i figli alla bellezza? Hai suggerimenti? Dunque, io ho cercato di rovesciare completamente il paradigma pedagogico. Uh-huh. Voglio essere io educato dai bimbi, perché sono convinto che comunque loro rappresentino una dimensione meravigliosa che noi abbiamo perso. Quindi non voglio imporre sui bimbi la mia visione delle cose, ma piuttosto voglio sforzarmi di recuperare la loro dimensione, che è una dimensione animistica. I bimbi parlano con gli oggetti, vivono il presente, tutte cose che noi non siamo più in grado di fare. Tra l'altro il video di Flowers che continuiamo ad ascoltare è un cartone animato, quindi torna questa dimensione colorata, giocosa, no? È uno dei tuoi linguaggi. Tra l'altro Giovanni Allevi è stato professore anche alle scuole medie per anni. Ho avuto la fortuna di presentare il suo disco qualche giorno fa a Bologna, dove però non c'era il pianoforte, vero Giovanni? Sì. E Giovanni ha tirato fuori il flauto dolce e ha fatto ascoltare una traccia col flauto, giustamente, perché ha fatto proprio, ha fatto giocare il pubblico come se fossero stati dei bambini. Quindi è tornato questo un elemento ludico che comunque ti contraddistingue, insomma, ti piace, ti dà energia, ti dà creatività. Ho fatto per quasi 15 anni il professore di educazione musicale nella scuola media, cioè in trincea, in una scuola media alla periferia di Milano. Mi svegliavo alle 5 del mattino per raggiungere i miei studenti, entravo in classi in cui praticamente l'interesse per il professore di musica e per la materia erano pari a zero, e quindi mi sono dovuto in quei 15 anni industriare in tutti i modi per cercare di catturare la loro attenzione. E tu hai avuto in quel piccolo momento a Bologna, hai avuto un attimo un assaggio di quella che era la mia didattica, e che in realtà prendeva le mosse dal grande pedagogista Dal Croz, pedagogista svizzero, però adattato alle mie esigenze lì, sì, del momento, anche, come dire, attraverso delle sfumature ludiche. E così i ragazzi, insomma, alla fine erano contentissimi e imparavano i rudimenti e la base del linguaggio musicale. Giovanni, io guarda, credo che prima tu abbia detto davvero una grande verità quando hai detto che la cosa fondamentale è lasciarsi educare dai figli, no? Credo che ci sia un grosso fraintendimento sull'idea di paternità che ci viene venduta, come se noi fossimo quelli che devono educare i bambini. In realtà c'è una reciprocità, come tu ben dicevi, sono anche i bambini a educare noi, ed è proprio quella la parte più divertente. E quando Federico in apertura ti chiedeva come la paternità possa aver cambiato la tua creatività, beh, credo che in questa risposta sia contenuto molto. Eh sì. Giovanni, grazie davvero. Ricordiamo che ci sarà un appuntamento molto importante il 15 novembre al Teatro Dal Verme, qui a Milano, con 60 elementi dell'Orchestra Sinfonica Italiana, con la prima europea del concerto per pianoforte orchestra numero 1, che è appunto composto da Giovanni e fa parte del doppio CD, e poi una grande Equilibrium Tour che partirà a dicembre da Roma, se non erro il 26, forse la prima tappa, e poi tantissime date in questo calendario che sta crescendo di giorno in giorno, giusto? Io ascolterò per la prima volta questa musica, la musica che ho composto. Io mi metterò lì seduto insieme al pubblico ad ascoltarla. Mamma mia, che emozione! Cioè, grande attesa, soprattutto la mia, devo dire. Poi ci saranno anche le altre date dell'Equilibrium Tour, come dicevi, da Roma, per oltre 20 concerti. E lì però non potrai solo ascoltare, lì dovrai. No, anche no, no, a parte che a Milano nella seconda parte del concerto suonerò, quindi non, suonerò gli altri brani di Equilibrio. Comunque, ecco, non vedo l'ora, voglio dire, la mia passione, la mia dannazione, ci metto tutta l'anima, ci metterò tutto me stesso, che mi perdonino i bimbi, però che devo fare? Grazie davvero a Giovanni Allevi, ciao Giovanni, buona domenica. Un abbraccio a tutti i papà che ci sentono, li capisco e capite. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Giovanni. Ciao. Grazie, buona ciao. Domenica. È il momento dei saluti, un grazie a Roberta Frisani, oggi la parte tecnica, Miriam Lucchetti che con noi come sempre ha scritto la puntata, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast, oppure padrieterni@radio24.it se volete scriverci, o ancora la nostra pagina ufficiale di Facebook. Adesso come sempre è il momento della lettera scritta dal papà Matteo Bussola. Oggi a chi hai scritto, Matteo? Oggi abbiamo scritto la nostra lettera a Bebe Vio. L'andiamo a ascoltare insieme. Ciao! Lettera aperta a Bebe Vio. Cara Bebe, questa settimana hai messo all'asta la medaglia conquistata ai Mondiali Paralimpici di Scherma a favore dell'associazione umanitaria CESVI. Il destino ti ha tolto tanto, braccia e gambe comprese, ma tu riesci sempre a dare tutto. Nello sport, nelle emozioni, nella vita. Per questo dovresti suscitare nell'ordine orgoglio, ammirazione, ispirazione e bellezza. Invece c'è chi ti accusa di essere presenzialista, di sfruttare la tua condizione. I più vili fanno perfino battute sul tuo aspetto. Ricordo quando fosti invitata da Obama per un viaggio di Stato alla Casa Bianca, in qualità di campionessa, e anche allora ci furono commenti nei quali ti si dava della raccomandata, ti si accusava di soffrire di delirio narcisistico, si diceva che i soldi dell'abito griffato indossato alla cerimonia avrebbero potuto essere impiegati meglio, abito prestato dalla casa produttrice, fino a chi ti accusò per aver volato negli Stati Uniti a spese degli italiani. La verità, Bebe, è che tu sei la miglior dimostrazione che nella vita non importa ciò che ti capita, conta di più quel che ne fai, e che anche le situazioni più terribili possono contenere un'occasione. Basta solo riuscire a vederla e avere sufficiente tenacia per perseguirla. È questo a dare fastidio ai cretini, perché le persone come te ci ricordano che il raggiungimento di ogni obiettivo dipende soprattutto da noi stessi e non dalle condizioni di partenza, e che i vincenti trovano sempre una via, mentre i perdenti trovano sempre una scusa.